Spesso il dubbio nell'investire ho incontrato. Era il PIL strozzato che ci addoglia. Era l'economia dalla voglia scarsa. Era lo spread troppo elevato. Bene non seppi, fuori del consiglio, che largisce il saggio due di denari. Era l'acuta e avveduta Rosciani, con Meazza, meticoloso e molto oculato. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Caro mio, è in arrivo una svolta storica nella WNBA, la Lega Basket Professionistica Femminile, la Women NBA. Sì, ma negli Stati Uniti però. Appunto, certamente. Qua da noi ci stiamo arrivando un po', però con calma, come sempre. Dobbiamo sempre guardare un po' quello che fanno altrove per cercare di capire se abbiamo la possibilità di adattarci. Cara di che Deborah, cosa si tratta? Cara Deborah, buongiorno. Dai la notizia e poi raffredderò i tuoi entusiasmi per la parte italiana. Prego. Allora, è stato raggiunto l'accordo provvisorio per un contratto collettivo della durata di 8 anni, dal 2020 al 2027, che prevede sostanziali miglioramenti per le giocatrici professioniste, a cominciare dagli stipendi, con le top players che potranno arrivare a guadagnare anche oltre $500,000. In generale, il monte stipendi supererà per la prima volta le 6 cifre, raggiungendo in media $130. L'accordo deve ancora essere ratificato dalle associazioni delle giocatrici e dai proprietari e prevede un incremento del salario di circa il 30% per il primo anno e dal 2021 un incremento di altre $750,000 in premi. Massima tutela alle mamme, con la previsione del pagamento integrale dello stipendio durante il congedo di maternità. Nell'accordo sono inoltre previste migliori condizioni di viaggio in occasione delle trasferte, dove viaggiavano prima sul carro merci, non so, con biglietti di prima classe sugli aerei e camere singole in caso di viaggi su strada. Mi risulta che i grandi campioni del basket maschile negli Stati Uniti prendano però degli stipendi che sono di qualche zero in più. Ma allora, poi qui bisognerebbe ragionare su quanto pubblico effettivamente, quante scommesse, quanti programmi televisivi si muovono nel basket maschile rispetto a quello femminile, eccetera eccetera. Però questa equiparazione ci fa piacere, perché in Italia siamo ancora lontani. Allora, da ultimo sì. È stato attivato faticosamente questo fondo per il sostegno allo sport, all'interno del quale c'è un fondo proprio per il sostegno alla maternità delle atlete. Allora, facciamo un piccolo passo alla volta, piano piano, lentopede, come direbbero quelli che vengono prima di noi, sai che dicono lentopede manera, perché lui arriva con calma, un po' in ritardo, con calma. riflessivo. E anche noi, diciamo, non stiamo per le fughe in avanti, andiamo piano piano. Come la metti, però se arrivi a 50 anni sei già un po' fuori dai giochi, mi verrebbe da dire, no? Soprattutto in questi campi, nel campo sportivo, arrivato ad una certa età devi metterti a fare qualcos'altro. E però, insomma, la vita è difficile anche per gli over 50 nel mercato del lavoro, che in realtà operano in qualsiasi comparto economico produttivo. Negli ultimi anni abbiamo visto molte persone rimanere fuori dai giochi, dai campi di gioco, appunto, del settore del lavoro, e oggi ritorniamo a parlare proprio di un tema molto delicato che costantemente dagli ascoltatori ci viene sollecitato. Che cosa? Perché ci dedichiamo molto ai giovani, alla ricerca di opportunità professionali non appena si è completato il percorso di studio, ma in molti appunto caldeggiano di affrontare anche l'altra fascia anagrafica, i problemi di altre fasce anagrafiche. Quindi, se si rimane senza lavoro a 45, 50, 55 anni, che succede se non si hanno le carte in regola per riproporsi nel mercato come si deve, se non si ha un adeguato biglietto da visita? Allora oggi parleremo di tutto questo, alla luce anche di alcuni dati Istat che sono stati diffusi proprio qualche settimana fa. E ne parliamo naturalmente con un'esperta di valore mondiale. Al di sotto, lo sai che qua non si va più. Vuoi presentarla per gli amici che ci seguono dal Facebook e quindi possono già vedere lo studio in tutta la sua bellezza? Tra l'altro ogni giorno c'è una telecamera in più. Adesso siamo inquadrati da una parte, da dietro la mia testa, da dietro la tua forse ancora non so, quindi veramente possono vederci anche i brufoli, gli ascoltatori. Presentiamo. Facciamo sorridere Cetti Galante, amministratore delegato di Intu, che è la società di G Group, leader nei processi di sviluppo e transizione di carriera. Buongiorno e ben ritrovata, perché è già venuta a trovarci diverse volte. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora, 800 24 00 24, peraltro avevo chiesto anche a Marco stamattina di lanciare una call to action su sul Facebook. Sì. Dico, metti un po' così una sollecitazione per gli ascoltatori che ci seguono sui social network. Se si trovano in questa posizione di cinquantenni, si stanno guardando attorno perché magari hanno in questo momento una condizione professionale che ritengono precaria, non proprio sicura e certa, o magari stanno accarezzando banalmente l'idea di cambiare lavoro, no? Di mettersi a fare qualcos'altro perché ritengono che la propria spinta professionale si sia esaurita. E quindi vediamo se arriveranno anche delle testimonianze, delle storie da lì. Noi ne avremo anche altre, e avremo anche la storia questa mattina di un'amministrazione comunale che sta rendendo disponibili delle risorse proprio per ricollocare gli over 50. Tutte le volte che dici questa cosa gli over 50 però mi guardi in modo vorrei anche ricordarti insistente. Che ci sono arrivata pure io recentemente. Quindi ormai ma comune mezzo gaudio. E allora guarda, ti sei distratta per così per dileggiarmi e non hai ricordato il 349-238-6666, che è il numero al quale inviare gli sms oppure i messaggi WhatsApp, anche se volete vocali. Senti, ma prima di tutto questo, cioè di dov'è il nuovo lavoro, che poi è la nostra abituale rubrica del mercoledì. Esatto, non ho detto la cosa fondamentale, perché trattiamo questo argomento oggi? Perché è mercoledì. Beh sì, insomma, o viceversa anche, però lo trattiamo proprio oggi essendo mercoledì. Ma c'è un giornale radio del risparmio? Guarda quante notizie, sono piena di pagine. Andiamo. Via. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se vuole. Sì, allora, cosa stai estraendo dalle tue tasche? Ti vedo come al solito con un documento ufficiale, una gazzetta fresca fresca, o risale a qualche tempo fa forse? Allora, sto estraendo la legge numero 5 dell'11 gennaio 2018. Sì, vabbè, qua siamo nel 2020, che cosa te ne fai di questo provvedimento? Infatti sono passati ormai 2 anni. Devi sapere che questa legge è solo di 4 articoli, peraltro. Ah certo. È una legge breve, quindi si può anche leggere. E quindi era anche chiara, insomma, poteva essere attuata anche molto rapidamente. Diceva che entro 90 giorni si sarebbe varato un decreto del Presidente della Repubblica che doveva normare, regolamentare, legiferare sulla materia di iscrizione al registro delle posizioni anche per i cellulari. Insomma, mettere il cellulare nel registro delle opposizioni, così non ti telefonano più tutti quelli che ti vogliono far passare al mercato di maggior tutela, quelli che ti vogliono far comprare degli investimenti a Londra, Malta, Cipro. Sì, attenzione, certo, perché spesso sono delle fregature. E insomma, tutti quelli lì, basta, perché mi sono iscritto al registro delle opposizioni. E non l'hanno fatto in 90 giorni? Purtroppo no. No, non sorprendentemente, però... Ti do una buona notizia, perché pare invece che ci sia pronto uno schema di DPR che dovrebbe essere esaminato nel prossimo Consiglio dei Ministri, generalmente quando è che si riuniscono il venerdì pomeriggio intorno alle 17, vediamo se venerdì succederà, grazie al quale dopo i numeri fissi e la posta cartacea adesso si potrà dire di no anche alle chiamate dai call center e al telemarketing aggressivo. Allora, noi vediamo, siamo fiduciosi. Certo. Io tengo comunque qui in tasca la legge numero 5 dell'11 gennaio 2018, la tengo sempre con me, qui vicino al cuore. Allora, quindi vediamo intanto se questo provvedimento sarà all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri, e soprattutto, ammettendo che il provvedimento venga preso, sarà vincolato a quanti decreti attuativi e misure attuative, perché poi lì sai che... Questo qui è già un'attuazione di una legge, quindi speriamo di fare la svelta. Comunque tutto questo lo spiega molto bene Carmine Fotina a pagina 30 del Sole 24 Ore di oggi. Andiamo alle certezze però. Esatto. Alla guida, eccolo con là. Il Sole 24 Ore di oggi. Dai che faccio la ragazza del ring come al solito. Ta, ta, ta, ta. Con il Sole 24 Ore di oggi, come vi dicevamo già nella puntata di ieri, potete trovare questa guida. Dina, inquadrami però, se lo dico anche a Walter. Sì, questa guida alle pensioni 2020. Allora, al netto di tutto quello che il governo deciderà, perché si parla di un tavolo, di rivedere quota 100, di andare al ritiro a 64 anni, eccetera, eccetera. Ok, ma adesso le regole come sono? Ebbene, questo volumetto ve lo spiega. È in vendita oggi con il Sole 24 Ore in allegato. l'articolo d'apertura è affidato a una voce nota per i nostri ascoltatori, cioè al collega Matteo Prioschi, oserei dire a questo punto una delle massime autorità mondiali in materia di regole pensionistiche. Esatto, insieme a Davide Colombo. Peraltro Matteo è molto bravo anche su tutti i bonus per la famiglia che sono già arrivati e quelli che dovrebbero arrivare quest'anno e che attendiamo molto fiduciosi affinché le nascite riprendano quota nel nostro paese, perché abbiamo un piccolissimo problema demografico. Senti, cervelli in fuga, questo è il tuo grande cavallo di battaglia, però io direi che sei tu quello candidato a raccontarci cosa racconta oggi il Sole 24 Ore su questo argomento nelle pagine di Punto Lavoro. Esattamente, nelle pagine di Punto Lavoro c'è un florilegio di amici di Due di Denari, perché non solo gli articoli sono firmati da Antonello Orlando, voce nota ai nostri ascoltatori, non solo ci sono dei contributi da parte di Antonio Longo, voce ugualmente nota ai nostri ascoltatori, ma anche degli articoli firmati da Michela Magnani, che è una esperta, delle massime esperte per il reddito di lavoro dipendente, per il Sole 24 Ore. Allora, che cosa raccontano questi massimi esperti? Raccontano dei bonus impatriati, di cosa funziona e che cosa no. Come sapete, l'anno scorso è stata rivista ulteriormente la normativa, c'è una stratificazione di norme per riattrarre cervelli usciti all'estero, spesso non solo cervelli, perché si tratta anche di lavoratori qualsiasi, anche lavoratori autonomi che vogliono rientrare. Come si interpretano, come si applicano e come stanno funzionando queste normative, lo riepilogano le due pagine oggi sul Sole 24 Ore. Senti, l'anno è partito con il botto per l'antitrust, eh? Cioè, no, le multe fioccano e ce n'è per tutti. Diciamo, vediamo che l'azione è democratica a 360 gradi. Quale grande società dobbiamo far arrabbiare oggi? Sottolineerei la parola grande, perché oggi tocca ad Eni. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato una sanzione da 5 milioni di euro ad Eni per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli che sarebbero stati utilizzati nella campagna promozionale che ha riguardato un particolare tipo di carburante di diesel, e anche relativamente all'affermazione del positivo impatto ambientale connesso al suo utilizzo, che ha le asserite caratteristiche, dice l'antitrust, di tale carburante in termini di risparmio dei consumi e di riduzioni delle emissioni gassose. Nel corso del procedimento, peraltro, Eni ha avviato l'interruzione di questa campagna stampa e si è impegnata anche a non utilizzare più, con riferimento a carburanti per autotrazione, la parola green. Quindi veramente tutte le società per pubblicità non proprio chiare e trasparenti sono sotto la lente di ingrandimento dell'autorità garante del mercato, per cui attenzione, perché qua le multe fioccano. Poi speriamo che questo denaro venga anche ben utilizzato. Dovremmo fare una trasmissione su come vengono destinati questi fondi che l'antitrust raccoglie sostanzialmente dalle sanzioni alle multe alle grandi compagnie. Prometto di occuparmene già bene, appena finita la trasmissione. Ti voglio dire che si stanno occupando invece di una cosa che io trovo meritoria nel mio piccolo, da consumatore, da utente. Bravo. I parlamentari, gli eurodeputati del Parlamento europeo. Cosa hanno fatto? Perché hanno discusso dell'introduzione di un caricatore universale per tutti i cellulari, tablet, i dispositivi portatili. Perché effettivamente, non so voi che siete voi all'ascolto, ecco, anche tu Deborah, ma uno se ha un device, sì, di una casa, di una grande casa, e se lo scorda a casa e chiede l'amico, l'amico non c'ha mai quello che ti serve. No, perché lui ha il device di altri, e quindi c'è un fiorire di tutti questi adattatori. Un altro florilegio, com'è che lo chiami tu? Eh sì, un'antologia di questi caricatori, che però poi alla fine è un pasticcio, e soprattutto, come hanno notato gli eurodeputati, genera più di 51.000 tonnellate di rifiuti elettronici all'anno. Quindi, ecco, si potrebbe semplificare, per favore mettetevi d'accordo, fate uno standard che sia uno, possibilmente non cambiatelo da un modello all'altro, perché l'abbiamo capito che fate così, ogni 2-3 modelli che aggiornate arriva il caricatore diverso. Adesso ci scriverà sicuramente qualcuno che dice che è assolutamente necessario, perché, certo, ma fatelo, noi siamo qui. Sarà pure necessario, cioè 18.000 cavi che costantemente perdo ovunque, chiaramente. Senti, apriamo lo sportello di Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Ma serve uno studio o essere molto intelligenti per vedere che le nostre strade, tutte, non solo le autostrade, con gallerie e ponti, sono in uno stato fatiscente? Viaggiando all'estero, ma non vi rendete conto che siamo rimasti indietro? Quando ci sono i lavori in corso, sono tutte segnalate per bene, ci sono gli spartitraffico, ci sono le strisce in terra, c'è cioè le banchine agibili. È tutto diverso che da noi è fatiscente, buche, erba alta. Siamo nel disastrati, siamo disastrati. Non ci sono scuse, non c'è vetustà. I ponti romani sono su da 2000 anni, 3000 anni e non cadono. Le nostre autostrade sono a pezzi perché degli incompetenti hanno guadagnato e fatto soldi e sfruttato la povera gente. Questa è la sola verità. Sono Remo. Buongiorno, io sono Alberto e chiamo da Bergamo. Io introdurrei un altro piccolo argomento che secondo me però è interessante e fondamentale. Il telepass. Ad oggi chi usa il telepass ha una fatturazione automatica, ha l'autostrada, la società autostrada ha la certezza di riscuotere questi pedaggi e in più fa pagare il noleggio del piccolo dispositivo dell'apparato telepass. Io direi che al contrario invece chi utilizza il telepass, proprio perché evita il lavoro al casellante, diminuisce l'inquinamento perché la vettura non si ferma e non deve ripartire eccetera eccetera, e per mille altri motivi, dovrebbe usufruire di un piccolo sconto. Grazie. Dov'è il nuovo lavoro? Diciamo che se riqualificassimo tutta la rete autostradale ce ne sarebbe tantissimo. Per ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni, pure per qualche giornalista magari, va. Eh beh, ma sicuramente, come siamo... diceva quell'ascoltatore nel messaggio, i ponti romani sono ancora in piedi. Sì, è vero, è che il traffico poi, come dire, è molto cambiato, ma è cambiato addirittura anche negli ultimi anni, perché tutto cambia in modo molto più veloce, ma cambiano anche le modalità di lavoro, e di questo chi miglior testimone se non Cetti Galante. Perché, dottoressa Galante, qui diciamo il problema è: se uno viene espulso dal mercato del lavoro dopo, azzarderei, 45 anni, è durissima, è tutta salita, non è più qualificato, forse il suo lavoro è addirittura scomparso, è stato sostituito da altri lavori. Si dice spesso, ma chissà se questa diffusione della tecnologia poi distrugge, crea posti di lavoro, non ci si metterà mai d'accordo, ovviamente alcuni vengono distrutti, altri vengono creati. Il problema è che dopo una certa età è complicato, se hai sempre fatto un lavoro, mettersi a fare tutt'altro. Aggiungo anche che parlare di una certa età, 45 anni, quando abbiamo ancora forza fisica, caratteristiche molto diverse dai 45 anni, 50 anni, di 30 anni, 40 anni fa, dottoressa Galante, anche questo forse è un aspetto da considerare. Prego. Assolutamente. Beh, tutto è stato cambiato dall'impatto delle tecnologie. L'età critica viene sempre anticipata più avanzano le tecnologie. Allora, qual è il segreto? Tenersi proattivi, tenersi informati, prendere delle iniziative personali al di là dei corsi che le aziende possono offrire, soprattutto mi rivolgo ai liberi professionisti, tenersi dinamici e anche nella vita privata coltivare una propensione alle tecnologie che ci rende curiosi, no? E ci permette di imparare, di stare a contatto con le app, con i nuovi tool, perché i lavori cambiano e le tecnologie sono trasversali, non ci sono ruoli non impattati o settori non impattati. Allora, al di là dei 40 anni bisogna stare attenti, non siamo nativi digitali e dunque dobbiamo apprendere. Lei questa raccomandazione la rilascia molto spesso. Il segnale è che tra le persone che ascoltate, come in tu, quelle che vanno riqualificate, reinserite nel mercato del lavoro dopo i 50 anni, non coltivano queste attitudini, questa sensibilità, non ce l'hanno? No. No, non ce l'hanno, non stanno sui social, oggi ricordo anche questo, i social non sono più un optional, costruirsi starci un'identità. Bene sui social, starci adesso bene, non significa però, brava, aprirsi 20 profili, ecco, solo per perdere tempo e pubblicare qualsiasi stupidata quotidiana. Starci per trasmettere i propri valori, la propria professionalità, valorizzare le proprie competenze. Spesso si accede a un colloquio di lavoro grazie a quello che si legge sui social. Ricordiamoci che la prima scrematura avviene lì, per cui per chi sta cercando lavoro e si prepara a affrontare un colloquio, ricordarsi che il primo colloquio si passa con un buon profilo social, ma soprattutto con un buon piano editoriale, e voi che siete giornalisti, di se stessi, comunicare cosa si pensa, un'opinione su quello che si sta facendo, ma questo lo dico anche per i lavori molto basici, non ci sono scremature di alto livello. Esprimere opinioni, dare pareri, commentare articoli che escono, fare capire chi siamo, la nostra personalità, che tipo di energia possiamo portare e cosa ne pensiamo delle cose, perché quello ci aiuta a essere poi selezionati sui colloqui, ma tenersi proattivi. Perché avete ragione, la maggior parte delle persone che sono rimaste senza lavoro e arrivano in Intu per ricevere un supporto alla ricollocazione, le scopriamo non proattive da anni, al di fuori dei grandi trend, non informate e con un atteggiamento molto passivo, come se le cose no, capitassero per pura sorte, e non è più così. La proattività personale oggi è tutto e dunque tenersi proattivi. Poi dai, non ci sono più scuse, in internet si trova tutto, è pieno di corsi gratuiti, le regioni e i comuni offrono corsi no, gratuiti, sinceramente fatti molto bene, non è più neanche un tema economico. Cioè lei spiega, diciamo, voi consigliate di anche se uno un lavoro ce l'ha, di avere anche altre competenze, di sviluppare anche altre competenze, magari bravissimo. Seguendo le proprie passioni, mi pare certo, di capire. Certo, perché cioè, non so, spesso anche una passione il corso diventa di cucina un lavoro. Può bravo, essere esatto. Utile, o non so, il corso di musica, o lo yoga, la fotografia, tantissimi che io vado hobby. A ristrutturare i miei comodini il sabato pomeriggio. Ecco, brava. Vedi? Questa cioè, è un una corso bella di bricolage. Yes. Gli shabby chic. Te l'avevo mai detto. No, vedi quante cose si scoprono. Sabato ne vado a fare un altro, poi te lo porto. Va bene, beh, ma posso portarti io un comodino un po'. Portalo, dottoressa Galante. Se noi scherziamo. Ci si trasforma, ma è vero, questo può diventare una professione. Allora, noi dobbiamo interromperci tra pochissimo, cara Deborah, perché ci devi dare l'aggiornamento dei mercati finanziari. Lancio intanto anche la provocazione di un ascoltatore che su WhatsApp prontamente ha scritto: ho 58 anni, avendo la necessità di riqualificarmi professionalmente, avevo deciso di frequentare un corso presso il Politecnico del Calzaturiero. Mi è stato fatto osservare che comunque alla fine del corso le aziende avrebbero scelto un giovane fra i 20 e i 30 anni e lui scrive fine. E qui non ho altro da aggiungere. Poi lo commenteremo e vedo che ne sono arrivati anche tantissimi altri, quindi ci fa piacere. Abbiamo evidentemente anche stamattina colto un po' nel segno e nella pancia delle persone che vivono questo problema. 349-238-6666 per continuare a scriverci SMS e WhatsApp, oppure 800-24-0024 per intervenire in diretta. E tutto ciò premesso, le borse. Due di denari, una cosa seria, per i vostri soldi, non i nostri. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta nuova Audi Q5 TFSIe, ibrida e 4. Pura avanguardia che combina il rispetto del motore elettrico a zero emissioni con la potenza del motore a benzina fino a raggiungere 367 cavalli. E con Audi Value il valore futuro della tua Audi è già scritto. Scegli oggi Audi Q5 TFSIe. Dopo 3 anni potrai completare l'acquisto, restituirla o sostituirla con un nuovo modello contando sulla certezza del suo valore futuro. Negli showroom Audi. Ora. Propositi per l'anno nuovo. Dieta. Sì, da lunedì. Palestra. Al massimo soft yoga? Prendermi del tempo per me. Sarà il solito tempo di un caffè. Almeno sul caffè non scendere a compromessi. Inizia l'anno con la qualità superiore di Nespresso. Con i Nespresso White Days puoi avere la macchina Inissia e 100 capsule di caffè a soli 69 euro fino al 19 gennaio. Andare nelle boutique Nespresso o su Nespresso.com. Nespresso. What else? Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. È considerato uno dei migliori film dell'anno. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Candidato a 6 premi BAFTA. Non sei un nazista, sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Jojo Rabbit, dal 16 gennaio al cinema. Belle le passeggiate, ma vuoi mettere il calduccio di casa? Un po' di relax sul tappetino autoriscaldante in varie misure, scontato del 30%? E poi le coccole del buon cibo, Royal Canin Dog Mini Adult 2 kg a 12,90€ per i buon gustai e tutte le diete veterinarie scontate del 20%. Ma affrettati, le promozioni scadono il 19 gennaio. Ah, grazie, allora prendo... No, scusi, parlavo con Max. Ogni giorno 1000 promozioni da Arca Planet, Pet Store, Pet Stories. Quota 100, pensione anticipata, opzione donna, APE sociale. Per muoversi tra le tante novità di legge, la Guida Pensioni 2020 del Sole 24 Ore è l'aiuto che serve per migliaia di lavoratori. Facile da consultare, ricca di informazioni e chiarimenti su un tema complesso e importante. In edicola mercoledì 15 gennaio con il Sole 24 Ore, a 50 centesimi in più. Di denari. Sì, no, stavo chiedendo informazioni a Marco Lombardo, che prontamente me le aveva messe in onda e io ovviamente non mi ero accorta, tutta presa nel parlare di comodini, falegnami, falegnamerie. Ho 52 anni, ci racconta Massimo da Lucca, da 20 faccio il falegname, ho iniziato proprio restaurando un comodino per hobby, ora ho un capannone mio, è un'attività ben avviata, è vero che coltivando le passioni si può creare un lavoro vero. Ma Cetti Galante, eravamo rimasti anche l'ascoltatore che ci aveva scritto in precedenza, voleva fare fatto un corso di specializzazione, 58 anni, ma poi gli è stato fatto capire molto chiaramente che poteva fare quello che voleva, ma in ogni caso quel settore avrebbe preso qualcuno di più giovane. È vero, però attenzione a una cosa, non è che facendo un corso poi il lavoro dopo in automatico arriva, bisogna fare il procedimento contrario, prima si predispone il terreno, si prendono contatti, si vede la potenzialità dell'attività e poi si fa il corso e una volta che ci si qualifica si ha già il terreno preparato. Allora il consiglio è sempre lo stesso, mentre si lavora a preparare il terreno, perché è ovvio che a fare una cosa del genere ci si mette un paio d'anni, se si rimane lavoro improvvisamente, con pazienza bisogna iniziare a seminare in questo senso, ma prima si semina e poi si fa il corso. Questa è l'employability, caro Mauro. Esatto. Non so neanche come si scrive, però invece ti voglio portare un esempio, perché prima Cetti Galante ci ha spiegato, ci ha ricordato che anche sul territorio esistono delle realtà, dei corsi, delle opportunità che si possono cogliere. E allora noi abbiamo chiamato Andrea Caprini, stavo dicendo Cabrini ma perché è una reminiscenza calcistica anche per assonanza col mio cognome, no, Andrea Caprini, che invece e poi è poi lui era Antonio, Andrea Caprini in realtà è un collega giornalista che lavora per un altro network, così almeno abbiamo detto tutto, dai, ecco perché ci e sbagliamo. Allora salutiamo tutti quanti, ma soprattutto salutiamo Andrea Caprini, assessore al welfare del comune di Mantova, buongiorno, buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Allora, assessore, voi avete preso una misura particolare che si chiama finalmente una gioia over 50, è corretto? Si chiama così? Sì, sì, sì. E che è sostanzialmente rivolta a riqualificare, far rientrare nel mercato del lavoro proprio gli over 50 che hanno perduto il lavoro, hanno perso la propria occupazione e allora avete investito delle risorse per dare loro la opportunità di rientrare. E come le avete impiegate queste risorse e che risultati avete ottenuto? Anzitutto grazie per l'opportunità di raccontare questa misura a voi e ai radioascoltatori. Io sono assessore al welfare nel comune di Mantova, intendiamo questa come una misura di welfare però in senso attivo, in senso di potenziare proprio quello che stavate raccontando a livello di capacità e di occupabilità delle persone. Si chiama finalmente una gioia over 50 perché prende l'esempio da una misura analoga che abbiamo sperimentato in questi ultimi due anni, perché ricordo comunque che i comuni non hanno, diciamo, una funzione o una delega diretta per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, però noi non ci siamo voluti rassegnare a vedere, diciamo, aumentare scenari sempre foschi nel nostro territorio riguardo alla disoccupazione giovanile. Questa è la misura che abbiamo sperimentato negli ultimi due anni con gli under 29 e adesso sta partendo una misura invece rivolta a una platea diversa, quindi persone che hanno più di 50 anni, residenti nel comune di Mantova, che speriamo di poter reinserire opportunamente, accompagnati, opportunamente seguiti all'interno del mercato del lavoro a livello territoriale. Ecco, va detto, assessore, no, che la dote, diciamo, per questa operazione è abbastanza piccolina, perché sono 150.000 euro se non ho letto male, quindi ci piacerebbe che ci raccontasse come intendete impiegarli, come concretamente. Noi abbiamo impegnato col bilancio di previsione subito per il 2020 e anche per il 2021 150.000 euro all'anno, serviranno per un progetto che si struttura in tre fasi. Una prima azione sarà un'azione di orientamento e di accompagnamento, quindi uno sportello. una fase di orientamento di quelle che possono essere le opportunità presenti e poi un momento proprio di accompagnamento con gli operatori accreditati per i servizi al lavoro, che dovranno poi prendere in carico in maniera completa le persone con i requisiti e individuare la soluzione più adatta a loro, utilizzando chiaramente anche tutti gli strumenti che già ci sono, dote unica lavoro, tirocini extracurricolari e quant'altro. In caso di percorso con esito positivo, poi siamo in grado di erogare un incentivo all'azienda che stabilizza il lavoratore. Abbiamo individuato due tipologie di incentivi diverse a seconda che la stabilizzazione sia diciamo a tempo determinato o meglio ancora a tempo indeterminato. Il tutto nasce anche attraverso una concertazione condivisa con il territorio, un protocollo d'intesa che andremo a stilare nei prossimi giorni con tutte le parti datoriali, associazioni di categoria, provincia, sindacati, camera di commercio, associazioni industriali, Confartigianato, Confcooperative e quant'altro. La misura di fatto inizierà ad essere operativa nel mese di febbraio e ci aspettiamo poi nell'arco dei mesi primaverili proprio un avvio effettivo con la creazione dei primi gruppi, delle prime esperienze di inserimento lavorativo. Assessore, questa misura è accessibile a tutti o c'è un limite di reddito? L'unico requisito è essere residenti nel comune di Mantova, perché questo chiaramente è un requisito che dobbiamo rispettare usando risorse pubbliche comunali. Avere più di 50 anni e trovarsi evidentemente in uno stato di disoccupazione, ma poi le aziende possono essere di tutto il territorio e non ci siamo dati limiti anche diciamo reddituali rispetto al target di popolazione. Vediamo insomma che è sicuramente una fascia che fa difficoltà a reinserirsi all'interno di un circuito lavorativo e più tempo passa da quando uno perde il lavoro, più diventa anche complesso e complicato ritrovare le motivazioni giuste, ripensarsi e trovare l'opportunità più adatta. Quindi c'è bisogno di fare un certo tipo di percorso anche preliminare, diciamo, di ricostruzione, di orientamento e poi ritornare a un'occupazione piena. Le faccio una domanda, ma le chiedo una risposta molto breve, anche se meriterebbe molto, molto più ragionamento. Avete avuto difficoltà nel varare questo tipo di misure, perché ci sono misure anche nazionali, regionali, sì. E quindi l'idea che un comune poi si attivi in proprio per sostegno dell'occupazione giovanile o quella over 50 magari può generare qualche problema burocratico, di normativa, di adeguamento e così via. Diciamo che ci sono tutta una serie di passaggi, chiaramente anche di atti amministrativi, che anche un'attenzione a non andare evidentemente a duplicare o a replicare misure già presenti che sono in essere. Riguardo ai giovani, chiaramente abbiamo fatto un'azione parallela a quella che era Garanzia Giovani, sì. Perché siamo in Regione Lombardia. E qua chiaramente siamo attenti a quelle che possono essere le misure del reddito di cittadinanza, anche se, qua la dico, al momento ancora come servizi sociali comunali siamo un attimo indietro rispetto alla attivazione di percorsi specifici. La cosiddetta seconda gamba, quindi navigator, eccetera, eccetera. Nel senso che la prima era l'assegno vero e proprio, la seconda è essere indirizzati a trovare o ritrovare lavoro. Infatti. Poi naturalmente c'è tutta i canali dello strumento totale, però ripeto, facendo un lavoro anche sul territorio con tutte le parti di confronto che è durato alcuni mesi preliminari, adesso siamo pronti per varare questa misura. Ci conforta vedere che i dati della sperimentazione ormai da 2 anni sul progetto sulla disoccupazione giovanile, veramente una gioia, ci hanno dato una cinquantina di assunzioni dopo una fase di tirocinio. Là chiaramente si trattava di un inserimento lavorativo e non di un reinserimento, sono stati attivati 150 percorsi di tirocinio, 50 sono stati finalizzati con delle assunzioni, quindi il 53% dei percorsi si è concluso poi con una stabilizzazione a tempo indeterminato. questa cosa ci ha confortato, certo, molto nel provare a proporre una misura anche per gli over 50, certo. Grazie assessore Caprini, in bocca al lupo per la seconda fase di questa vostra operazione. Un commento veloce, accetti galante, bisogna fare veramente rete per risolvere questo problema famoso anche del mismatch che spesso raccontiamo. Cosa ne pensa di questa iniziativa comunale e soprattutto voi che avete anche una mappatura nazionale, ce ne sono molte di amministrazioni locali che si mettono in gioco con iniziative magari simili? Non ce ne sono molte, dunque io faccio i complimenti perché questa è una bellissima iniziativa. Il tema di fare rete è gigantesco, ci sono tantissimi soggetti, dalle società di intermediazione alle agenzie per il lavoro, alle società di outplacement private, ai centri per l'impiego pubblici. Io sono una grande fautrice di creare rete, dovremmo tutti i soggetti collegarci, il rapporto pubblico-privato dovrebbe essere molto più forte, noi siamo assolutamente disponibili a farlo molto di più perché, ricordiamoci, abbiamo 3 milioni e mezzo di lavoratori in stock disoccupati da un po' di mesi o da più di un anno, da più di 2 anni. Queste persone vanno supportate in modo mirato e va supportato in modo mirato chi il lavoro lo perde ogni giorno. Vanno supportate in modo mirato, mi sembra un messaggio molto molto interessante. Fermiamoci un istante perché è il momento del traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna il momento poetico. Partecipa anche tu inviandoci il tuo componimento a duedidenari@radio24.it. I versi dovranno trattare i nostri temi: investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. E l'ultima parola dovrà sempre essere traffico. Hai preso carta e penna? Ti aspettiamo. La finanza è poesia. Tuta? C'è. Guanti? Anche. Paraorecchie? 2 paia. Ok, andiamo pure al lavoro. Un vero professionista non smette mai di esserlo, nemmeno quando la temperatura scende a zero. Se scegli un veicolo Fiat Professional a gennaio, anche l'anticipo va a zero. Acquistalo ora e inizia a pagarlo ad aprile. Canone da 139 euro al mese, TAN 3,80, tasso leasing 3,88. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it. Di denari. Eccoci ritrovati insieme per l'ultima parte del nostro programma del mercoledì dedicato alla ricerca di lavoro. Luca da Asolo scrive: se trovassi un muratore anche di 60 anni lo assumerei subito, qua nel Trevigiano più nessuno lo vuole fare. Stavamo proprio un po' così analizzando questo argomento a microfoni spenti con Mauro e con Cetti Galante, perché abbiamo capito che intanto un po' un passo indietro rispetto alle competenze acquisite, magari anche alle qualifiche, ai livelli di retribuzione, è difficile, come dire, da accettare. E poi c'è anche l'altro tema, tutta la gamma di lavori che nessuno vuole più fare, e quindi riqualificarsi per farne uno magari che si ritiene di qualità inferiore rispetto al precedente è, come dire, un passo anche psicologico da sostenere, dottoressa Galante, non facile. Anche su quello poi bisogna essere seguiti. Assolutamente, perché trasformarsi non è facile, però sono percorsi da prendere in considerazione perché ci sono tantissimi settori che cercano e non trovano. Ogni anno le statistiche ufficiali di Excelsior ci riportano decine di migliaia di posti di lavoro che rimangono vacanti. Indagine di Union Camere, no? Esatto. Facciamo degli esempi: autisti con patenti speciali, cuochi, personale di accoglienza degli hotel, persone che lavorano a temperature particolarmente basse. La cosa dei cuochi carne è pazzesca, perché nonostante i MasterChef di questi anni abbiano appassionato moltissimo in questo campo tantissime persone, in realtà poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Andare a fare il cuoco a livello professionale, e anche i saldatori, sapevo saldatori, io saldatori, manutentori, quelli sono ricercatissimi, anche a 60 anni vengono assunti. Per cui il messaggio qual è? Non esitare a fare, se è il passo indietro, perché secondo me non lo è, tanti lavori sono retribuiti benissimo e pienamente qualificanti, ma anche tanti ragazzi, cioè il riavvicinarsi a professioni tecniche, a lavoratori a specializzarsi in fabbrica. In Germania l'apprendistato, che funziona molto bene, veicola tanti ragazzi a entrare in fabbrica come operai specializzati. Allora, sono, prima di tutto sono pagati benissimo gli operai specializzati, è una professione su cui spezzo una lancia perché non viene presa in considerazione, c'è un grandissimo bisogno. L'operaio specializzato oggi è anche in camice, direi, è in camice 4.0, esatto. Molto Deborah. Adatto alle donne, esatto, anche perché la fatica, certo, fisica si è molto ridimensionata. Le postazioni ergonomiche, non dimentichiamoci, Pomigliano è stato il primo esempio, ormai non immaginiamoci più i tempi di Charlot, cioè fortunatamente no, sono ormai molto marginali, ma è fondamentale riempire queste posizioni. Allora, un altro che apre peraltro il tema dei migranti, una parte dei migranti potrebbe essere assolutamente utilizzata su questi lavori, soprattutto quelli stagionali, che gli italiani non vogliono più fare. Mi sembra di cogliere una cosa, che se diciamo uno aspetta di ritrovare il lavoro nelle condizioni precedenti, un lavoro simile a quello che aveva, che ha perduto, eccetera, più il tempo passa e più gli nuoce, cioè, certo, è vero, più diminuiscono le speranze, è così, me lo conferma? Sì, sì, soprattutto dopo l'anno di disoccupazione, attenzione, all'anno di disoccupazione non si deve arrivare. Molti lavori si trasformano, no? Per cui pensare di ritrovare il proprio lavoro identico è abbastanza impossibile. Per quello bisogna sempre stare attenti a come evolve il proprio ruolo nel mercato. Questa è una cosa che poche persone fanno e io invece invito, no, a una riflessione attenta, a una curiosità. Come sta evolvendo il mio lavoro? Com'è nelle altre aziende? Quali tecnologie stanno entrando? Su cosa mi devo tenere informato? Ripetiamo, attraverso internet, attraverso corsi è possibile farlo, ma serve la proattività personale, ancora una volta. Vorrei fare, ce la faremo in pochissimi minuti, anche un piccolo ragionamento sul tema di genere, per capire, sì, se per gli over 50 o le over 50 la problematica è la stessa, è o differente. Antonella dalla provincia di Varese, ce la facciamo anche a prendere una telefonata. Antonella, una bella esperienza, la sua, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Beh, io avrei voluto fare una panoramica di tutte le mie varie attività, però vi dico solo l'ultima perché è quella forse più importante, che dopo essere stata all'estero per un periodo di tempo e avendo fatto lavori di vario genere, sono tornata in Italia che avevo già 50 anni, per cui insomma era un po' problematica la cosa, come ben si sa. E allora dopo un anno circa di attesa, di meditazioni, mi sono iscritta a un corso per diventare ASA, ausiliaria socioassistenziale, per l'assistenza ad anziani e a disabili. Certo, rimettersi a studiare a 50 anni non è stato molto facile, è stato un corso di un anno, ogni mattina si andava a seguire 4-5 ore di lezione, alla sera studiare fino a mangiare alle 2-3 di notte perché la memoria non è più quella, non era più abituata, certo. Adesso Antonella dobbiamo chiudere purtroppo, adesso e cosa comunque fa? Comunque niente, da allora mi sono qualificata, ho sempre trovato del lavoro da allora, adesso ne ho 60, quindi non sono mai rimasta disoccupata se non, certo, qualche mesetto qui e là. Tra l'altro Antonella, la ringrazio, dobbiamo salutarla perché tra poco chiudiamo. Un mestiere del quale ci sarà sempre più bisogno. Molto old economy, molto poco digitale, ma molto tradizionale. Il processo demografico in Italia rende sempre più indispensabili queste figure di accompagnamento alla vecchiaia. Assolutamente, operatori sanitari, tutto quello che è intorno all'anziano e alla salute ha un futuro enorme. Over 50, uomini e donne, quali differenze? Le donne si fanno molto più carico dei genitori anziani, dei figli, di problematiche della famiglia e si ritirano in modo spontaneo dal mondo del lavoro o ritardano la ricerca di una nuova occupazione. Attenzione a questo fenomeno che è abbastanza forte. No, stavo guardando che molti sono tornati sulla vicenda dei social, stare o non stare sui social, e allora siccome abbiamo meno di un minuto, volevo dare l'occasione a Cetti Galante di ritornare ancora su questo aspetto. Allora, non abbiamo detto che se uno non sta sui social non troverà mai più lavoro, abbiamo detto però che è importante costruire, come dire, una web reputation, una reputazione di sé, un'identità digitale, per non usare parole inglesi magari a sproposito, un'identità digitale che ci renda riconoscibili in qualche modo, ci renda anche un po' appetibili per quello che sappiamo fare, che sappiamo dire, che esatto, sappiamo per proporre. Le proprie competenze, certo, è fondamentale, lo ripeto, qualsiasi età, qualsiasi livello, qualsiasi professione, la prima scrematura viene nel web, le prime informazioni vengono prese in internet. Oggi nei percorsi di outplacement che noi facciamo a questi argomenti dedichiamo tantissime ore, perché anche i giovani che sono tutto il giorno sui social non sanno usarli per cercare lavoro. Allora, www.intu.it, intu con due O finali, quindi all'inglese. Grazie alla dottoressa Cetti Galante. Grazie. Buon 2020, naturalmente la richiameremo fra qualche mese affinché possa raccontarci belle esperienze di persone che si sono ricollocate senza traumi.